Job 24. Miss Moda Italia 2009 è Mirella Sessa. Scusami tesoro, non so come abbracciarti, scusami tesoro. Mirella Sessa ha conquistato il titolo di Miss Moda e se l'è visto togliere tempo di record. Lo sbaglio, lo ricorderete, si è verificato nell'ultima edizione di Miss Italia. Ne parliamo qui a Giove 24 perché vicende, diciamo, analoghe accadono anche nel mondo del lavoro. Ne sa qualcosa la nostra ascoltatrice che dopo aver firmato un contratto a tempo indeterminato se l'è visto poi sfilare in un batter d'occhio. Ecco quello che ci ha scritto Giada, insegnante nella scuola pubblica. Gentile redazione di Giove 24, sono una vostra assidua ascoltatrice che da molti anni fa parte della tanto discussa categoria dei precari della scuola pubblica. Il primo settembre scorso ho finalmente raggiunto uno dei più importanti obiettivi della mia vita, sottoscrivendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato con il dirigente dell'ufficio scolastico della mia regione. Purtroppo però il sogno è durato poco. Il 12 ottobre, tramite raccomandata dall'ufficio scolastico regionale, vengo informata che ad una mia collega è stata riconosciuta un'invalidità civile che le ha fatto maturare un punteggio tale da superarmi in graduatoria e per questo motivo mi è stato revocato il ruolo. Nella stessa lettera vengo invitata a recarmi alla segreteria didattica per convertire il mio contratto in uno a tempo determinato. Praticamente, in poco più di un mese sono stata assunta e licenziata per diventare nuovamente una precaria. Adesso mi trovo tra due fuochi. Il sindacato da una parte mi dice che non posso farci niente, dall'altra parte un avvocato mi ha detto di non firmare il nuovo contratto e pretendere che quello attuale resti valido. Potete darmi un consiglio? Oltretutto, in questo momento sono al sesto mese di gravidanza e non vi nascondo che la cosa mi sta turbando così tanto da farmi preoccupare per la salute del mio bambino. Grazie in anticipo e sinceri complimenti per la qualità del vostro programma. Giada. Chi ha ragione, il sindacato oppure il legale consultato dalla nostra ascoltatrice futura mamma? Ha diritto o no a pretendere che il contratto firmato resti valido? Ho chiesto un parere a Giuseppe Bulgarini, avvocato del lavoro in Milano. Per rispondere al quesito posto dall'ascoltatrice, è preliminare indicare alcuni punti fermi sulla procedura. L'assegnazione in ruolo e la conseguente sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato intervengono a seguito dell'approvazione della graduatoria ad esaurimento su base provinciale e dell'emissione di un atto di individuazione da parte dell'ufficio scolastico. Solo dopo questa fase l'insegnante viene invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro da parte del dirigente della scuola ove è stato destinato. Nell'ipotesi di successiva revoca, la relativa comunicazione deve essere effettuata dal dirigente della scuola. È irrituale o improprio, almeno per quanto consta, che detta comunicazione, così come riferito dall'ascoltatrice, sia resa dall'ufficio scolastico, in quanto a quest'ultimo compete di annullare l'atto di individuazione, ma non invece quello di intimare il recesso, che compete soltanto al dirigente della scuola. La situazione sotto questo profilo andrebbe chiarita da parte dell'ascoltatrice, rivolgendosi proprio ai funzionari dell'ufficio scolastico provinciale. Premesse queste osservazioni di fondo, è importante segnalare che l'atto di revoca è ad ogni effetto un provvedimento di risoluzione, in quanto estingue un rapporto di lavoro già costituito. Mi sento di condividere sotto questo aspetto le conclusioni indicate dall'avvocato consultato dall'insegnante, per il quale, dopo l'approvazione della graduatoria e l'assunzione in ruolo, il rapporto di lavoro deve essere ricondotto nell'ambito privatistico. Se è così, si applicano allora le disposizioni previste dal regime della tutela reale, ovvero nello specifico le conseguenze sanzionatorie predisposte dall'articolo 18 della legge 300 del 1970, con la conseguenza che l'insegnante potrà impugnare il recesso, purché lo faccia entro 60 giorni dalla sua comunicazione, e promuovere quindi una causa di lavoro per l'annullamento del provvedimento di revoca e la ricostituzione del rapporto. Dunque la nostra ascoltatrice può far valere le sue ragioni perché i margini di legge perché conservi il suo contratto a tempo indeterminato ci sono. Io ringrazio l'avvocato Bulgarini, ringrazio voi per l'ascolto. L'indirizzo a cui mandare le vostre mail è job24@radio24.it. Per riascoltare il sito è molto semplice, www.radio24.it. Grazie per l'ascolto e un saluto da Roberta Pellegatta. Ma lei sta facendo un comizio da mezz'ora, cosa vuole di più in un paese libero? Questo è il paese libero, viva la libertà, c'è la libertà in Italia, abbia pazienza. Che devo fare? Io ho altri impegni, Mario, lei mi cercherà, io ho altri impegni. Sono occupato, ognuno per conto proprio occupato. No, ma io la sento per fortuna. No, perché comunque la trasmissione mi piace. No, ecco, meno male, meno male, e questo è il bello. La zanzara. ore 18:35. Radio 24. La passione si sente. Angelica, gli appassionanti film dell'eroina che ha fatto sognare intere generazioni. Angelica, amori, avventure, sensualità e seduzioni. La prima uscita a soli 4,99€ è già in edicola, da Hobby & Work. Ma certo, signora, suo figlio si impegna, ma non basta. Va bene, allora mi dica lei che cosa deve fare più di così. È semplice. Nella vita, per avere successo, ci vuole metodo. E nelle aziende ci vuole metodo Evolus, la soluzione gestionale completa ed evoluta per amministrare, controllare e pianificare tutte le attività. Sono migliaia le aziende in Italia che con successo adottano la soluzione metodo Evolus. Fai fare un salto di qualità alla tua azienda. Vai su metodo.it e troverai ciò che hai sempre cercato. Garantisce Gruppo Team System. Come va lassù? Tutto bene? Quasi finito! Ma quanto carburante ci sta dentro sta tanica? Ehi, ci devo fare oltre 20.000 chilometri! E come fa con l'autostrada? È più grande del casello! Subaru Forester Diesel e B-Fuel. Fino al 30 novembre con carta prepagata PostePay Subaru per rifornirsi in tutte le stazioni di servizio convenzionate e viaggiare gratis per oltre 20.000 chilometri. Info su subaru.it presso la rete ufficiale Subaru. Facciamo la macchina della verità a Sabrina Ferilli. I sofà di Poltrone Sofà sono i tuoi preferiti? Ma certo! E oggi sei qui perché c'è la collezione Sofession a metà prezzo. Vero, il sofà Dragoncello a 690 euro invece di 1380. Che sono matti! Sì, e c'è anche il divano Vita in vera pelle a soli 990 euro. Che ne pensi? Beato Duarte chi sofà! Il sofà! La Ferilli non mente mai. Lo so! Poltrone Sofà, benvenuto in un mondo tutto tuo. Numero verde 800 900 600. Interrompiamo la solita pubblicità per una notizia straordinaria. I Super Genial Lloyd hanno i clienti più soddisfatti e in caso di danni all'auto agiscono immediatamente. Un super servizio con un risparmio fino al 50%. E in più le nuove polizze auto su internet hanno uno sconto extra di 20 euro. Fai un preventivo su genialloyd.it. Genial Lloyd, così semplice. Passaparola. Ripassiamo la linea alla solita pubblicità. Gigio! Mi sto lavando bene le mani per non prendere l'influenza. Anche l'influenza A si previene così. È la prima delle 5 regole. E le altre? Non le sai. Ma cosa mi dici, dici mai? Copri il naso e la bocca quando tossisci o starnutisci. E via! Il fazzoletto nella spazzatura! E poi? Se non ti sei lavato le mani, non toccarti occhi, naso o bocca! E ricordati di aprire le finestre per cambiare l'aria! Hai febbre, mal di gola, tosse e raffreddore? Resta a casa e chiama il medico di famiglia! Ecco, le regole per la tua tranquillità! Grazie, Gigio! Mi raccomando! L'influenza A è una normale influenza. Con queste 5 regole si combatte meglio. Per informazioni, ministerosalute.it o chiama il numero verde 1500. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. COMPA, il Salone Europeo.